Venerdì 20 gennaio al Covo Club di Bologna suonerà Claudio, cantautore romano che dopo 3 anni e mezzo di silenzio dal suo ultimo disco fa uscire lo scorso dicembre Guerra Fredda, un album cantautorale che racconta l'inquietudine del presente attraverso sonorità malinconiche e un'incantevole scrittura. È qui con noi Claudio, a cui do il benvenuto su Radio Città Fucico. Ciao, buongiorno, benvenuti a tutti, grazie per l'incantevole scrittura. Parlaci un po' di Guerra Fredda, il tuo nuovo album, perché hai scelto questo nome? Allora, il nome che ho scelto mi è venuto comunque alla fine della scrittura del disco, dopo che ho risentito i pezzi, ho scritto 2 righe su dei appunti per parlare di questo disco, di come erano nati i pezzi, mi è venuto in mente lampanti con la Guerra Fredda, perché quel disco rappresenta delle battaglie interiori che diciamo ho affrontato nel periodo in cui ho scritto il disco, quindi dal 2020, dall'inizio del lockdown 2020 fino a luglio-agosto del 2022, quindi l'anno appena passato. E nel frattempo, diciamo, in questo momento in cui ho scritto il disco, a parte la situazione in cui ci trovavamo tutti, quella del primo lockdown, ci sono state 3 situazioni personali mie, e in più ci sono stati i dubbi su, insomma, il mondo che si è della musica, che si era fermato, tutto anche il resto, altri settori del lavoro, in un momento in cui io dovevo, insomma, fare il secondo disco, quindi anche le mie battaglie personali sulle aspettative che potevano avere le persone che ascoltavano la musica, le aspettative che avevo io su quello che dovevo fare, quindi insomma ho cercato di liberarmi il più possibile mentalmente in tutte quelle circostanze che c'erano per scrivere il disco in modo sereno. Quindi tutte queste battaglie che ho affrontato alla fine l'ho sentita anche nei pezzi, è stato perfetto poi questa idea del nome Guerra Fredda che mi è venuta. Come nascono i testi dei pezzi che compongono Guerra Fredda e qual è il brano a cui sei più legato? I testi in questo caso sono nati molto a istinto, perché appunto ho cercato di non pensare troppo, e mentre in quel momento io avevo anche pensare, visto il lockdown, insomma, il potermi dedicare a musica, ho cercato di pensare il meno possibile, quindi comunque sono nati proprio da stati d'animo, quindi non è stato un lavoro freddo, come invece dice il titolo, Guerra Fredda, no? Ma è stato molto di quello che provavo in quel momento, quindi molto a istinto. Ok, e il brano a cui sono più legato invece credo che sia proprio Freccia, perché è stato il brano che mi ha fatto sbloccare da quella situazione, quindi l'ho scritto poi verso la fine del 2020. Quindi da Freccia poi ho trovato, diciamo, la via per scrivere tutti gli altri brani. A Freccia ho scritto che stavo ancora a Roma. Dopodiché, qualche mese dopo, ho deciso di partire, diciamo, di ritirarmi un po' in Umbria, in una campagna in cui sono stato 4 mesi, mi pare da giugno, fine giugno del 2021 fino a novembre. Tutto novembre sono rimasto lì. Torni con Guerra Fredda dopo alcuni anni dall'uscita di Togliatti Boulevard. Cosa è successo in questi anni a livello artistico? Allora, a livello artistico poco, perché sono stato fermo. Io l'ultima data che ho fatto il 7 marzo del 2020 e poi c'è stato subito, insomma, c'è stato lockdown, c'è stato più che altro riflessione e appunto questi combattimenti silenziosi che avevo dentro. Quindi forse poi a livello artistico si sente in Guerra Fredda, non so, credo una maturità, qualcosa di diverso dal primo disco, quindi è più stato un qualcosa a livello personale, a livello artistico, come cambiamento. Claudio, io ti ringrazio e invito tutti e tutte venerdì 20 gennaio al Covo Club di Bologna.